Radio Wombat. Siamo tornati un po' in ritardo, ma per fortuna che c'era Prog 1 e Prog 75 con la loro Reggae 69 a tenervi compagnia nel frattempo, e che saluto, anzi gli do il benvenuti e bentornati. Finalmente se ne sentiva tantissimo la mancanza in questa radio, Radio Wombat, vi ricordo, e già che ci sono vi ricordo 20 e 39 di martedì 2 ottobre, perché vi ricorderete che Slick Chick ha cambiato giorno e ora è il martedì. Vi ricordo i social Wombat, ovvero il sito wombat.noblogs.org e la casella di posta wombat@insiberia.net. Questo per i social Wombat. Secondo me a breve vi potremo annunciare anche un account Mastodon, chissà perché Facebook ci fa schifo, invece Mastodon inizia a piaciucchiarci. E comunque, citando anche Coccoli al Silicio, no, comunque Mastodon non può certo essere peggio di Facebook, quindi insomma che aspettate a provarlo. Ma veniamo a noi, quelli che avete sentito adesso erano i Pink Floyd, non erano molto riconoscibili ma erano loro, i primissimi Pink Floyd, dall'album, il primo album, l'album di debutto, e questa era l'ultima traccia, l'album era The Piper at the Gates of Dawn del 1967, e la canzone che vi abbiamo appena fatto ascoltare era Bike, perché oggi Slick Chick parla di biciclette, biciclette, quindi oltre al saluto a Reg 69 è doveroso anche fare una dedica dell'intera trasmissione, direi, all'altra nostra trasmissione. Beh, la trasmissione di Radio Wombat che in assoluto si merita di più la dedica per la puntata di oggi, in punta di pedali, che vi ricordo ora è in vacanza, ma insomma tornerà a brevissimo, anche questa ci manca, e quindi in attesa vi intrattengo io raccontandovi delle biciclette. Sicuramente loro fanno meglio, sanno anche meglio di cosa si parla, perché io in bici sono veramente goffa. Ma insomma, che vi è toccata così, insomma, in attesa che tornino loro, vi beccate me e la scaletta di Slick Chick dedicata appunto alle biciclette. Pink Floyd, dicevamo, Bike, una canzone molto surrealista, l'avrete notato, con tutti i suoni di campanelli, orologi, campane, gong, tutte ste chincaglierie che piacevano a Syd Barrett e ai primi Pink Floyd. A questo punto direi di continuare con la nostra scaletta, che sto veramente già strabordando, il tempo è quello che è, e vi faccio ascoltare subito un altro brano senza indugiare oltre, brano di tutt'altro tenore, direi proprio cambiamo completamente genere, saltiamo di palo in frasca come siamo abituati a fare. John Fay con Bicycles Built for Two, una bicicletta costruita per due, dall'album The Transfiguration of Blind Joe Death del 1965. Era questa, molto veloce, bam, subito così, è finita subito, peccato. E saltando sempre di palo in frasca, di bici in bici, arriviamo agli Shellac, che appunto direi con il genere musicale di prima non c'entravano assolutamente niente, ma hanno scritto un brano che si intitola Riding Bikes, ovvero penso bici da corsa, oggettivamente penso intendessero questo, e l'album è Judge Incredible del 2014, e il testo è uno di quei testi molto malinconici che parla di quando eravamo piccoli, delle cose che facevamo e via via, però di quanto si stava bene, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Però vira ben presto su delle cose un po', cioè su delle note un po' più sgradevoli, e si lascia intendere che i tempi comunque a una certa sono cambiati parecchio e che da piccoli si è diventati adulti con tutto quello che questo vuol dire. Più o meno il testo a grandi linee dice: io e Ted eravamo piccoli, andavamo in bici lungo il muro a rubare e rompere cose, io gli guardavo le spalle e lui le mie, ognuno aveva l'altro. Fare questa cosa ci ha reso uniti, qualcosa di simile a come essere fratelli. I tempi cambiarono, le cose diventarono più strane, storie di contese, alcune delle cose che abbiamo dovuto fare non sto a parlarne. Gli uomini a cui rispondo esigono risposte per questa città. Riunisci gli uomini, Ted, la merda sta avvenendo a galla e io sto andando in bici. Riding bikes along the wall, stealing things and breaking things. I had my back, he had his, each one had the others, doing things that made us whole and something close to brothers. some of the things we had to do, I'm not about to mention. I won't second guess something done in the panic of the moment. I'll admit the scale requires something like atonement. The men I answer to require answers in this town. Get your folks together, Ted. Shit is coming down. We're not riding bikes! Questi erano appunto gli Shellac, Scaletta, su Slick Chick, manco mi ricordo come si chiama questa trasmissione, Scaletta su Slick Chick dedicata alle biciclette, come dicevamo, e in effetti sono in tanti i musicisti che per parlare di biciclette hanno attinto ai loro ricordi di quando erano giovani, di quando erano piccoli e quant'altro, tra cui non soltanto gli Shellac ma anche i Taxpayers. Taxpayers sono una band che non credo conoscerete, o forse sì, chissà, però insomma, ma ecco, non sono famosissimi, sono di Portland in Oregon e sono interessanti, sono dei cacciaroni punk, folk punk acustici che fanno un gran casino, e l'album che hanno fatto nel 2009 si chiama A Rhythm in the Cages, e la canzone che parla di biciclette, ed è per questo che ve la propino, si chiama Bike Cops. Presente Bike Cops, no? Il poliziotto in bicicletta, presente quanto è ridicola l'immagine di un poliziotto in bicicletta, no? Ecco, quelli. Anche qui c'è un testo che è interessante, un testo che parla di ricordi e di amici lontani in qualche maniera. Ti sei incartato con i lucchetti, hai giocato al gatto e al topo con i poliziotti in bicicletta, ballato male con i dipendenti dietro al picchetto all'hotel, hai scroccato stampe in copisteria, dipinto le finestre con lo spray e dormito sul pavimento per un anno. Poi ti hanno accusato di aver aggredito un ufficiale interferendo con un protettore della pace, condotta antisociale, disturbo della quiete pubblica, intrusione. Ci siamo fatti prendere dal panico e ora sei rinchiuso in una cella di prigione da solo, ma non sei mai solo, hai amici nella maggior parte dei posti. Questi sono i Taxpayers. Caught up in new logs, play chicken with bike cops, dance badly with employees at hotel picking lines, stole copies from Kinko's, spray painted the windows and slept on the floor for a year. And they got you on charges of assaulting an officer, interfering with a protector of the peace, disorderly conduct, harassment, trespassing. We panic, now you're locked in a jail cell alone. Don't ever get lonely. You got friends in most places. You got friends. questa puntata di Slick Chick, oltre che in punta di pedali, la dedichiamo anche un po' a chi in bicicletta ci va al lavoro, ai riders, anche a quelli che non lo fanno di lavoro ma comunque ci vanno lo stesso a lavoro in bici, insomma a chi la utilizza tutti i giorni cercando di scampare al traffico, alle macchine, a chi li vuole uccidere. E allora, Tomorrow, My White Bicycle è il prossimo brano, un brano del 1967 e My White Bicycle ovviamente, forse l'avrete intuito, è un brano, la bicicletta bianca insomma in italiano, è un brano che è proprio palesemente dedicato ai Provost. Vi leggo un pochino quello che ho trovato su a Rivista Anarchica per spiegarvi la questione Provost, chi erano e cosa facevano e perché i Tomorrow hanno intitolato un brano a loro. Tra l'altro manco solo loro l'hanno fatto, in realtà nella musica si è attinto molto, cioè si è dato omaggio diciamo ai Provost e alla loro bicicletta bianca. In Olanda agli inizi degli anni 60, pieno boom automobilistico, proprio quando tutti, ma proprio tutti, sognavano la loro bella quattro ruote, si fanno notare degli strani personaggi che vanno totalmente controcorrente. Sono i Provost, un gruppo di anarchici, dadaisti e zuzzurelloni, madonna che bella questa parola, speravo di poterla dire una volta in radio, a cui spetta la palma di avanguardia di quella contestazione giovanile che verso la fine del decennio infiammerà l'intero Occidente. I Provost nutrivano un senso di frustrazione e di rigetto nei confronti della società consumista e alienante, per usare le loro parole, si sentivano in questo mondo come ciclisti su un'autostrada. Scelsero la bicicletta come santo strumento tribale, arma comunitaria contro i comportamenti antisociali degli automobilisti che agivano e agiscono indisturbati contro l'ambiente, coperti dalla grande industria e dalla polizia. I Provost restano vivi nella memoria dei più per il famoso piano delle biciclette bianche. Appunto, la messa a disposizione della cittadinanza di Amsterdam di un certo numero di biciclette collettivizzate. Biciclette sempre aperte a disposizione di chiunque se ne volesse servire, un mezzo di trasporto gratuito, una provocazione contro la proprietà privata capitalista. La bicicletta bianca è anarchica e simboleggia semplicità e igiene di fronte alla cafonaggine e alla zozzeria dell'automobile. Una bicicletta non è nulla, ma è già qualcosa. Questo dicevano i Provost. Un atto ecologico, anche se allora la parola ecologia non esisteva ancora. I Provost scelsero di dipingere di bianco le bici dopo aver scartato l'idea di farle rosse e nere come la bandiera anarchica, per il semplice fatto che le loro azioni avvenivano prevalentemente di notte. Un bel numero di cittadini, rispondendo ai loro appelli, si reca nel luogo di raccolta, offre le proprie biciclette e le dipinge di bianco, mettendole a disposizione del provotariato. Il successo è immediato e l'operazione accende l'immaginazione di altri gruppi consimili, da Stoccolma a Berkeley, da Praga a Oxford, motto dell'iniziativa: il bianco annulla tutto, soprattutto la proprietà. So late. Beh, è bella la bicicletta bianca dei Provost e anche dei Tomorrow. E, arriviamo invece in Francia, a Yves Montand, la bicicletta 1968, rimaniamo sempre in quelle zone. Canzone francesissima, di una francesità estrema. Ti pare di vedere un film dove Yves Montand è anche protagonista e se ne va in bici insieme ai suoi spensierati amici, e Paulette, la figlia del fattore, che non poteva che chiamarsi Paulette, di cui tutti sono innamorati, e ridono e scherzano e rubano delle mele da un albero, il mondo è leggero, francesi, proprio francesissimi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On on se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Allora, dopo tutta questa carineria, dobbiamo assolutamente riprenderci e lo facciamo con i Propagandi. Propagandi che anche loro, sì, hanno parlato del ciclismo, delle biciclette, dei ciclisti e l'hanno fatto in un brano che così a prima vista non magari non sembrerebbe, ma parla invece esattamente di questo. Hadron Collision, l'album è Failed Status del 2012, uscito per la Epitaph Records ovviamente. E Todd Kowalski ci proprio racconta la genesi di questo brano e il perché c'entra con il ciclismo, diciamo la bicicletta, la bici, dicendoci: Large Hadron Collider è un acceleratore di particelle situato presso il CERN di Ginevra ed è dove ricercano la particella del bosone di Higgs, che la gente chiama la particella di Dio, così come cercare la risposta, cioè come se dovessero cercare la risposta all'universo. Questo Kowalski lo diceva nel 2012, tra l'altro, che è proprio l'anno in cui l'esistenza del bosone di Higgs è stata davvero dimostrata, ve lo ricorderete. L'Hadron Collider fa girare le particelle, dice sempre Todd Kowalski, a una velocità maggiore di quella della luce, e quando si avvia così velocemente la massa diventa così grande che rallenta se stessa. Non sono uno scienziato, no, evidentemente, e l'idea della canzone è quella di un tipo che sta cercando di guidare la sua bicicletta attraverso il traffico, violare tutte le leggi, un po' come fa una collisione di Hadron. Slick chick, dopo i Propagandi arriviamo ai Kraftwerk in questo nostro tour del ciclismo musicale. Siccome il Giro d'Italia quest'anno è stato pietosamente suddito delle politiche israeliane, lo ricorderete, consoliamoci almeno con il Tour de France, che invece proprio puro. Vabbè, no, perché i Kraftwerk erano in fissa con il Tour de France, erano in fissa in generale con il ciclismo, ma in particolare erano in fissa con il Tour de France. E questo brano, Tour de France appunto, è un brano che esce come singolo nel 1983, quindi pieni Kraftwerk, appunto dei primi anni 80. E ci sono tutta una serie di campionamenti di voci e rumori legati al ciclismo, insomma, vabbè, non poteva che essere così. Però poi in realtà nel 2003 i Kraftwerk, non paghi di questo brano, hanno fatto uscire un intero album che proprio si chiama Tour de France Soundtracks. E il primo album dopo una lunga pausa iniziata nell'86 dopo la pubblicazione di Electric Café. E album che è stato pubblicato in concomitanza con il 100° anniversario del Tour de France. E poi fra l'altro altra cosa così en passant che mentre di solito i Kraftwerk, lo ricorderete, incidono varie versioni dei brani in inglese, in tedesco, a volte anche in italiano, in giapponese, che fra l'altro sono stupende, questa volta invece l'album esce in un'unica versione cantata soltanto in francese, proprio, cioè erano andati in fissa appesa, è andata così. Thank you. Madonna. Solo ai Kraftwerk poteva venire in mente di affidare la ritmica di questo brano al respiro di un ciclista. Veramente bellissimo. E proseguiamo nella nostra scaletta di Slick Chick dedicata alle biciclette con Toquinho. Toquinho a bicicletta, cioè arriviamo pure al portoghese. 1997, Toquinho, pseudonimo di Antonio Pecci Figlio, nato a San Paolo nel 1946. In realtà è un chitarrista, cantante brasiliano, ma brasiliano sì, ma di origini italiane. Aveva parenti in ogni dove in Italia, dall'Abruzzo al Molise al Mantova, ovunque. Toquinho crebbe nel clima musicale degli anni 50, in cui fiorivano le sperimentazioni del pianista Johnny Half, dei cantanti Dick Ferney e Lucio Alves, e al loro fianco si sviluppavano un po' tutto quello che comportava un po' il milieu da cui poi sarebbe nato la bossa nova, di João Gilberto, Tom Jobim, eccetera eccetera eccetera. Toquinho, come tanti altri negli anni 70, insieme a Chico Buarque, scappò in Italia in fuga dal golpe militare, e ci rimase in Italia un bel po', si trovò assai bene, e vabbè, però noi comunque ritorniamo al Brasile, nonostante che questo sia un brano scritto parecchio dopo, nel 97 appunto, e con ABC Bicicleta. Ei, sei, sei, LTA, sou tua amiga bicicleta, sou eu que te levo pelos parques a correr, te ajudo a crescer em duas rodas deslizar, em cima de mim o mundo fica à sua mercê. Você roda em cima, o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. Pra isso acontecer, basta você me pedalar. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Sou o que te faço companhia por aí, entre ruas, avenidas, na beira do mar. Eu vou com você comprar e te ajudar a curtir picolé, chicletes, figurinhas e gibi. Roda a roda, o tempo rode, é hora de voltar. Pra isso acontecer, basta você me pedalar. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Faz bem pouco tempo entrei na moda pra valer, os executivos me procuram sem parar, todo mundo vive preocupado em emagrecer, até mesmo teus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente vem me pedalar, mas de um jeito estranho que eu não saio do lugar. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Questo era Toquinho. Vabbè, un po' così, diciamo che ci serviva per cambiare genere, eh? Sì, decisamente. The Mixtures, prossimo brano ancora diverso, Push Bike Song, che chissà che vuol dire. Cioè, io mi sono immaginata Push Bike Song, forse è quello che spinge la bicicletta, non lo so, io mi sono un po' immaginata così, quel poraccio che magari ha forato, è rimasto, gli è uscita la catena, non so se la rimette a posto, che ne una tragedia, e lui si ritrova chissà dove a spingere la bicicletta. Ma magari invece vuol dire chissà che altro, non ve lo so dire. onestamente. Comunque questo brano, che in Italia non è che proprio sia famosissimo, è stato il numero uno in Australia nel 1970, il numero due anche in Gran Bretagna, però in realtà appunto in Australia è proprio grandissimo successo. Gente strana gli australiani, ma noi Vombati non possiamo certo parlarne male, e anzi, quindi gli diamo ampiamente spazio. E nel video, perché c'è anche un video di questo brano, nel video ci sono loro, i Mixtures, insieme a un'allegra tipa e altri personaggi fricchettoni e bizzarri che se ne vanno in bici in posti improbabili, dalle autostrade, sopra il tetto di un autotreno e robe così. Sono strani, ve l'avevo detto, d'altra parte. Riding along on a push bike, honey, when I noticed you. Riding downtown in a hurry, honey, down South Avenue. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. Well, I pulled in the speed and I tried catching up, but you were pedaling harder too. Riding along like a hurricane, honey, spinning out of you. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song, around, round, we're going round, round, round. Down up pedals, down up down. But I gotta get across to the other side of town before the sun goes down. That's a bicycle built for two. I'm looking at my honey in the rearview mirror, and now I got a better view. You look so pretty as you were riding along. You look so pretty as you were singing this song. I sing the song around, round, we're going round, round, round. Down, up, pedals, down, up, down. But I gotta get across to the other side. Mentre ascoltavamo questo saltellante brano, parte in qualità infima, scusate, e che pareva un po' uscito dalla colonna sonora di un film di Bud Spencer e Terence Hill, non vi pareva? A me sembrava tantissimo. Mentre ascoltavamo questo brano sono andata a spulciarmi un po' il sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, e ho scoperto che è giù, eh sì, perché probabilmente ci sono dei piccoli e lievi e urgenti sicuramente problemi con Noblogs. Con l'occasione ringraziamo i compagni e le compagne di Autistici Inventati che ci ospitano tutto quanto la baracca, e quindi insomma sicuramente lavoreranno alacremente per rimettere tutto a posto. Non temete e riprovate via via, siate pazienti. In conclusione, perché qua ci mancano due pezzi alla fine di questa scaletta di oggi, siamo andati correndo come se fossimo con una bici da corsa di quelle super sciccose. In conclusione abbiamo due brani appunto un po' più seri, beh non tantissimo, ecco, non vi preoccupate. Il primo è Black Monday, è Ride Your Bike dei Black Monday. A volte veramente non si distingue il titolo del pezzo dal nome del gruppo, anche se in effetti qui un po' di indizi c'erano. 1974, afrofunk francese, perché anche se non, magari non lo sapevate, però anche in Francia c'è stata una stagione dell'afrofunk negli anni 70. E beh, qui usciamo un attimo dal seminato, perché vale la pena di soffermarci un attimo sul nome del gruppo, che è Black Monday, perché in effetti lunedì nero ci riporta al lunedì nero del 19 ottobre del 1987, ricorrenza che festeggeremo sicuramente, insomma, tra un po'. E lunedì nero fu un po' quel giorno in cui i mercati mondiali subirono un'improvvisa discesa, più che discesa, diciamo tracollo, del valore dei titoli quotati. A livello di danni, il crollo praticamente fu il più grave dell'intera storia dell'economia. La borsa di Hong Kong perse l'11% e fu un po' la prima, e a traino il mercato restò chiuso per il resto della settimana per calmare i nervi degli investitori. È bellissima questa cosa, che oddio, bisogna un po' calmare i nervi. Ma non funzionò. Quando riaprì il mercato, niente, lunedì successivo tutti dicevano ora va meglio. No, per niente, le azioni scesero ancora del 33%, che in borsa è una roba pazzesca, e in pochi istanti fu chiaro agli occhi di tutti che in effetti i mercati globali cosiddetti si stavano evidentemente intrecciando tra loro, in un momento in cui in effetti la globalizzazione ancora era un concetto là da avvenire, perlomeno era ancora un po' embrionale. E quell'ora fu chiara come anche l'uso dei derivati fosse stato un bel acceleratore di questo botto che aveva fatto la borsa. E fra l'altro fu anche il primo questo crollo a riguardare i fondi pensione e i grandi investitori istituzionali, le grandi istituzioni che avevano ben scelto di investire in borsa, che in realtà all'epoca erano ancora relativamente nuovi. E quindi, fra l'altro, altro nota interessante, che fu un botto, in realtà poi alla fine della fiera, amplificato dalla crescente dipendenza dalla tecnologia e dai computer. Non c'entrava quasi niente con l'argomento di oggi, che è le biciclette, ma comunque Black Monday non capita spesso di metterli in scaletta, e quindi, anche perché insomma non è che sono proprio il mio gruppo preferito, però d'altra parte, siccome hanno scritto Ride Your Bike, mi hanno dato questo assist e quindi non potevo non coglierlo. Ma torniamo alle nostre biciclette, quindi torniamo a Ride Your Bike 1974 dei Black Monday. To steal my car and take my 13:59 AM, la frequenza sulle onde mediocri dove ci potete ascoltare, non ve l'avevo ancora ricordato, beh ricordatevelo, 13:59 AM, frequenza che se siete fortunati di bazzicare una zona dove siete raggiunti dal nostro suono, ecco, beh lì ci trovate, lì stiamo e lì ci potete ascoltare tutte le volte che volete. Siamo in chiusura di scaletta, abbiamo l'ultimo brano e in effetti ci sono anche tutta una serie di ciclisti che non abbiamo ricordato, che sono quelli pazzi che con la bicicletta riescono ad andare un po' ovunque e con soltanto insieme a questa inseparabile amica riescono a scalare montagne pazzesche, finiscono in posti bellissimi, incredibili, e beh è un po' a loro che va dedicato quest'ultimo brano, non perché li riguardi particolarmente, ma perché d'altra parte ci stanno anche loro nella categoria di chi ama e va in bici, e beh direi che ci stanno sicuramente. E l'ultimo brano con cui vi saluto e vi do l'appuntamento a martedì prossimo sono dei Madness ed è Riding on My Bike, uscito insieme a Driving in My Car, giusto per un colpo al cecchio e una alla botte, insomma del 1982, e beh la loro meravigliosa visione, la bicicletta secondo i Madness. Sono andato in sella alla mia bici con chiave, pompa, luce posteriore e anteriore. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno per andare. Sto entrando in una maratona, corro per beneficenza, gli sponsor mi rincorrono. Ho imparato a tagliare quella linea gialla e ci parcheggio la mia bici ogni volta. I soldi al minuto per il parchimetro, il bollo sempre a posto, le pompe di benzina si gonfiano in aria, alla revisione manca tantissimo. Vi saluto e con questo brano e vi do appuntamento appunto a martedì prossimo, sempre con Slick Chick, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Charity sponsors come running to me. I've learned to cut that yellow line and park my bike there any time, a minute. Money for the meter men, the road tax up to pay to them. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now a for cry. Just last week, but you're not silly, believe in me. We sold our car to skip the fight. £10 I found I didn't find. Oh no, you don't fool Morris. I've had my fill of petrol fumes, attached myself to big balloons and pumped them full of precious air. The traffic jammed with despair. your heart.